buongiorno. Dimissioni, mani pulite, falsi, educazione stradale e una digressione sul modello generale di ogni denuncia disattesa costituiscono il piatto forte della giornata.